11.09 sulle libere frequenze di Radio Blackout, i 105.250. Buongiorno a tutti e tutte, come ogni martedì mattina, Parole Ribelli vi farà compagnia fino alle 12.45. Oggi puntata estiva, perché da tre giorni a questa parte a Torino è tornata l'estate ad aprile. In questa giornata solitaria vi porteremo, vi delizieremo appunto fino alle 12.45 con una puntata piuttosto ricca. Andiamo avanti con un po' di musica e andiamo a presentarla. On the edge, on the why, I'm from the group where friction leads to fire. Stack your bricks, the time is take your pick. Do it, don't, the track, alchemist. Yo, my life is good, I got my peeps in the mix, so. Words come to words, my peoples come first. I got worldwide family all over the earth, and I worry about them all for whatever it's worth. From the birth to the hearse, through streets the guns burst. Words I disperse are here to free minds, yeah. And if mine are needy, I need to feed mine. When words come to words, set up shop and write a verse. Actually, that's best come to best. My lyrics take care of me, they therapy, get shit off my chest. Extra stress, 3-4 over the score. Different patterns of rhyming prepare me for war. So next time you see us, we'll be deadly on tour. When words come to words, my peoples come first. Word up, if worst comes to worst, I make whole crews disperse. You know it's family first. Gifted unlimited with dilated people. Babu, evidence, Irish science. And a shout out to my man Alchemist on the Trizap. Words come to words, my peoples come first. I'm a glutton for the truth, even though truth hurts. I've studied with my peoples on streets and in church. We make it hard when we go on first. Long road, honor of the samurai code. These California streets ain't paved with gold. Words come to words, my peoples come first. I got the back. At the end of the day, we could go our separate ways, but the song remains and won't change. Got my target locked in range. I might switch gears, but first I switch lanes. Without my people, I got nothing to gain. That's why. Words come to words, my peoples come first. Special victims unit, catalyst for movement. Create to devastate since 84, show improvement. Definitely dilated peoples comes first. Cross trainers fall, we raise the ball, and we put it in your ear no matter who you are. E allora 11.12 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Andiamo a iniziare questa nuova puntata di Parole Ribelli. Innanzitutto rimandiamo i complimenti all'info che ci sono arrivati. Le informazioni di Blackout sono sempre esaurienti e andiamo a ricordare i contatti così che anche voi possiate dirci come ve la passate questa mattina. Lo 011 24 95 669 per chiamarci e il 346 66 73 263 per scriverci e per il servizio Cisti Viaggiare Informati. E allora andiamo a presentare questa puntata, tanto parleremo tanto di Expo, allora mano a mano che il primo maggio si avvicina, anche i giornali danno sempre più spazio a questo evento, si cerca, diciamo, la rassegna stampa intorno alla Fiera Mondiale diventa sempre più variegata, ecco perché abbiamo infatti notizie di vario genere intorno a ciò che sta accadendo a Roffiera, quindi riporteremo sicuramente qualche aggiornamento dalla Assemblea No Expo Nazionale tenutasi lo scorso sabato a Milano. Rilanceremo verso l'assemblea del prossimo sabato degli studenti No Expo proprio qui a Torino invece. Parleremo anche di incidenti sul lavoro, morti bianche, diciamo una piaga che colpisce da sempre, che per per diciamo che fa sì che perché i costi del lavoro vengano ridotti, le misure di sicurezza vengano sacrificate. Allora l'ha pagato con la vita Claudia Nelezzi proprio nel cantiere Expo. E andremo poi infine, per chiudere un po' la parentesi sull'Expo 2015, a presentare il nuovo spettacolo del blog Sistema Torino, Exporto 2025. Vi faccio poche anticipazioni perché sarà poi interessante sentire i ragazzi che lo presentano essi stessi. Una proiezione di quella che può essere, diciamo, il futuro della grande opera tra 20 anni. E a proposito di grandi opere, poi ci spostiamo in Piemonte. Sappiamo che da tempo in OTAV il Notav Terzo Valico, Liguri e Piemontesi, Arquata Scrivia, diciamo il nodo appunto del Terzo Valico, viene osteggiato con determinazione ormai da tempo. Allora sabato l'appuntamento è ad Arquata Scrivia e andremo a sentire Eugenio, proprio un ragazzo di Arquata, che ci andrà un po' a contestualizzare la situazione. Andremo poi a fare un po' di rassegna stampa dal mondo. Abbiamo seguito durante questo tempo le mobilitazioni studentesche sia tanto in Canada quanto in Olanda, e allora continuiamo a seguire quel che accade. Abbiamo visto che recentemente purtroppo sono state sgomberate entrambe le occupazioni, ma gli studenti sembrano determinati a rispondere, ma ne parleremo meglio dopo. Sul finire, se riusciremo, continuiamo sempre a seguire la vicenda di Yotsinapa, dei normalistas, che ormai da mesi commentiamo anche con dirette dal Messico stesso. Bene, se riusciamo a sentire che i compagni Solidaria 43, che in questo momento sono in Italia, bene, se no rimanderemo alla prossima puntata. In ogni caso andremo invece a parlare di quello che vergognosamente è successo a Cremona la scorsa settimana, ovvero lo scatto, l'entrata in vigore delle misure cautelari per alcuni, carcere per altri, per due compagni a Cremona. Allora, come al solito, si mette sullo stesso piano aggrediti e aggressori, e si paragona un'azione squadrista come quella di 60 camerati che vanno al centro sociale e riducono in fin di vita un compagno a una rissa tra bande. Bene, una rissa tra bande non è, questo è antifascismo. L'antifascismo non si arresta, sempre al fianco di Emilio, sempre al fianco dei compagni di Cremona. Things have got so rough, even my dog left home, even my dog, even my bitch, even my girl left home. Things have got so rough, even my girl left home. She's down at her other man's barking, begging for the moon. Things have got so rough, even my girl left home. She's down at her other man's barking, begging for the moon. These one-time bitches, bound to get you down. Had a job making good money, but it just ain't enough to go around.

Perfetto. E come dicevamo in apertura, raccogliamo un po' di informazioni oltre a quelle dei giornali che ci riempiono, diciamo, appunto di questo entusiasmo per quella che poi in fondo sì sarà anche un ricettacolo di mafie, sì sarà anche uno spreco inutile di soldi, ma che bella avventura che è. Ci teniamo di più ad avvicinarci a un punto di vista che sia quello invece di chi come noi riconosce in questa grande opera l'ennesima opera inutile, per l'ennesimo bancomat per chi di soldi già ne ha abbastanza, e soprattutto in maniera ben più preoccupante un paradigma estrattivo volto a immiserire i territori e a renderli la fonte di profitto solo per qualcuno. E allora sabato scorso abbiamo visto questa assemblea No Expo a Milano. Sid, se ci dici un po' com'è andata, chi c'era, che cosa si è detto e soprattutto quali sono le tappe verso il 1° maggio. Sì, ciao a tutti, grazie per questo spazio che ancora ci date. Dunque, ormai siamo veramente vicini a questa inaugurazione, e come veniva detto, appunto la dimensione predatoria e appunto mafiosa di Expo sta uscendo fuori. In tutta Italia questi elementi emergono purtroppo con estrema chiarezza. Anche nella città di Milano tutti quanti cominciano ad avere questa parola sulla bocca. Prima non era così, però dopodiché aggiungo un pezzettino a tutto il racconto che hai fatto, cioè l'inaugurazione soprattutto, oltre che come tu dicevi una grande avventura, insomma, l'assemblea che c'è stata questo sabato forse ci può ancora di più far immaginare che queste giornate siano un'avventura per noi. Dunque l'assemblea è stata abbastanza partecipata, meno della precedente, anche se perché è stata comunque spinta abbastanza poco e poi in ritardo. Vedeva al suo interno una buona rappresentanza di insomma tanti compagni di varie parti d'Italia. Devo dire anche che l'Expo Tour che stiamo facendo credo stia dando buoni frutti, perché siamo riusciti ad arrivare anche nel profondissimo sud, e questa roba è positiva, e stiamo vedendo una buona risposta da parte di compagni e compagni anche da molto lontano, si stanno organizzando per provare a essere a Milano in quei giorni. Si è ribadita, insomma, si è provata a mettere in evidenza per l'ennesima volta quanto dietro questo grande evento di Expo si nasconde, appunto, come dicevi, un paradigma che trova al suo interno tutte le contraddizioni di questa fase del comando capitalista, tutti gli elementi di scontro con cui ci troviamo a confrontarci, che sia la TAV a Terzo Valico in Val di Susa, che siano le piccole resistenze territoriali, appunto, che c'è nato la TEM, ma non solo, c'è la Bregheni, c'è la Piedemontana, c'è la Trieste, sono tutte le opere connesse direttamente e indirettamente a questo grande evento. E ci sono poi anche chiaramente tutti gli stessi nemici, diciamo, gli stessi elementi, gli stessi gruppi di potere con cui ci troviamo a combattere ogni giorno. Penso alla resistenza dei quartieri popolari in questa città, in tutta Italia. Ad esempio, proprio questa mattina, aggiungo la notizia, proprio nel Gioppellino, il quartiere in cui io mi organizzo con i compagni e le compagne, è in atto un altro sgombero, proprio una palazzina in cui qualche mese fa provarono a sgomberare senza riuscirci, senza ottenere nessun effetto. Non sono sul posto, quindi non so esattamente cosa sta succedendo, ma questa è la faccia con cui Expo si presenta ai proletari di questa della nostra città. Dunque, per quanto riguarda le mobilitazioni, faccio un po' il punto su questo, poi magari mi dici tu dove vogliamo andare. È stata confermata questa, che ironicamente chiamiamo le 5 giornate di Milano, perché innanzitutto la cosa, insomma, un po' diversa da questa giornata del 1° maggio rispetto a tante mobilitazioni del discorso periodo, è che non si esaurirà in un giorno solo, ma bensì ha uno spettro di 5 giorni in cui una serie di iniziative sono messe in campo di tipo diverso. Prima di tutto ci sarà un campeggio di lotta che sull'onda lunga, appunto, delle esperienze davanti su, e non solo, cerca di costruire un momento in città, innanzitutto di apertura e di allargamento, in cui a parte i compagni militanti, insomma, sia possibile incontrare anche magari stimolare la curiosità di altri pezzi di classe, di altri pezzi di proletariato giovanile, metropolitano e non solo. In più c'è la possibilità pure tra noi tutti di condividere dei momenti organizzativi, di vivere insieme in qualche modo. Questo campeggio sarà in un parco cittadino, non vicinissimo, ma neanche così distante dall'area Expo, e partirà ufficialmente dal 30, ma l'accoglienza per tutti quelli che vorranno venire anche da prima è garantita dal 27 e dal 28, perché comunque prima ci sarà un altro festival, che è il festival delle culture antifasciste, quindi le strutture sono le stesse. Dunque poi la settimana inizia con il 29 aprile, in cui cercheremo come Milano antifascista, come assemblea, insomma, milanese antifascista, che vedere sentendo praticamente tutte le realtà, i compagni che si organizzano su questo tema. Chiaramente c'è anche un sacco di contraddizioni, come ovvio che sia, perché ci sono tante anime, tante sfumature, tante forme, però cercheremo tutti insieme di impedire con ogni mezzo la parata di fascisti, che giusto tre giorni dopo il 25 aprile vorrebbero, non con la scusa, insomma, ma in occasione dell'anniversario della morte di Ramelli, vorrebbero dar vita a quello che era un momento, insomma, di propaganda nazifascista totalmente estesa, nel senso che vede la destra istituzionale a fianco di Forza Nuova, di Casa Pound, degli Skinhead, degli Hammer, tutti insieme uniti per fare quello che l'anno scorso è stata chiamata proprio una parata, cioè saluti romani, celtic, svastiche, eccetera eccetera. Insomma, quest'anno la città di Milano sta rispondendo abbastanza con forza e sta dicendo che non avevo nessuna intenzione di vederli sfilare. Quindi, guarda, ti colgo l'occasione per dare anche un accenno di rassegna stampa che avrei voluto dare in seguito, ovvero, come dicevo, lo spettro, diciamo, delle notizie che abbiamo su Expo è abbastanza ampio e si allarga sempre più si avvicina il 1° maggio, ma sicuramente è tra il tragicomica l'uscita dell'assessore Chiara Bisconti, che diceva su Piazzale Loreto di mettere al centro di Piazzale Loreto, a parte l'orribile simbolo di Expo, l'albero della vita. Allora, diciamo, lasciamo stare, siamo ormai abituati da anni a vedere come questo memorificio istituzionale sforna versioni della storia ogni volta, diciamo, strumentali a quello che poi effettivamente gli serve per il momento. Sappiamo che, ecco, rimuovere quella che è stata uno degli atti più importanti della lotta di liberazione dell'Italia dal nazifascismo, ecco, vuole essere così cancellato con un colpo di spugna per il nome di questa, di un nuovo inizio in cui in realtà in cui siamo tutti insieme sotto il segno di Expo. Quindi sì, cito virgoletto la nostra amica Chiara Bisconti: cancellare un momento storico controverso con un inno alla vita. Io credo non ci sia nulla di controverso nella caduta del fascismo, i fascisti andavano cacciati, punto. Quindi non... no, è fatto benissimo a ricordarmi questo spunto, in effetti in totale coerenza con la giunta Pisapia, che giusto appunto l'anno scorso, in occasione dello scorso 29 aprile, in gran segreto in realtà, perché i partecipanti al corteo non lo sapevano, la mattina il signor Pisapia inaugurò i giardini Ramelli insieme a tutte le associazioni che ricordavano Sergio Ramelli, dicendo proprio questa stessa identica tiritera: basta con l'odio, vogliamo una memoria condivisa, insomma, solita sì, sappiamo perfettamente che per la memoria condivisa, diciamo, sull'altare della memoria condivisa, il tributo dobbiamo sempre pagarlo noi, e sono di fatto gli antifascisti che vedono la propria memoria cancellata, e i fascisti che si vedono spianare la strada, come dicevamo anche in apertura di puntata. Poi andremo a Cremona a commentare veramente a sentire i compagni per l'orribile richiesta alla magistratura. Ok, vado avanti con le giornate. Sì, torniamo a Milano, anche se in effetti le connessioni sono continue, perché, cioè, come dire, tutte queste infamità, tutte queste nefandezze che il potere ci spiattella davanti senza ritegno ogni giorno, devono necessariamente trovare dei momenti in cui tutti insieme, cioè in cui le uniamo tutte e le combattiamo tutte, perché il nemico sostanzialmente è lo stesso. Questo, come dire, la precipitazione diretta verso il primo, ma poi ci arriviamo. Comunque vado velocemente sul 30. Il 30 c'è un corteo studentesco che è chiamato nazionale, addirittura internazionale, per l'ottimo lavoro che i compagni studenti stanno facendo sia nelle scuole della città, ma anche andando molto in giro. C'è l'idea di provare, attraverso quella giornata, a dare molto protagonismo al soggetto studentesco, sia universitario che medio, a prendere una giornata, perché insomma giustamente tutti gli studenti saranno in piazza anche il primo, ma i compagni sono organizzati per fare in modo di avere questa giornata. Partirà questo corteo dal centro, attraverserà dei punti molto, molto importanti. L'invito chiaramente è quello di, a chi può, a chi vuole, voi che non siete neanche troppo lontani, insomma, di provare a partecipare, provare a vedere se da un momento di forza, speriamo, possano ripartire mobilitazioni studentesche anche in questa fase dell'anno un po' complessa. Poi arriviamo alla giornata del primo, che insomma incellica la caratteristica agli eventi dei 14 anni passati di May Day, quindi un corteo estremamente di massa, molto grande, all'ordine di decine di migliaia di persone, con anche un elemento di gioia e di festa che comunque vogliamo anche, abbiamo voluto anche mantenere, quindi avrà questi degli elementi musicali, avrà l'elemento della gioia, per me è estremamente importante, però questa May Day No Expo vuole avere anche delle altre caratteristiche, vuole avere, cioè, innanzitutto insomma, una composizione super eterogenea. Ci stiamo accorgendo andando in giro in Italia che come dicevo prima, cioè che questa data potrebbe essere a tutti gli effetti una scadenza sentita e partecipata a livello nazionale, sappiamo anche a livello internazionale, e in cui, cioè, si possa condensare sia chiaramente la gioia, il prendersi la città in maniera gioiosa, in maniera scherzosa, però anche la volontà di smetterla di subire, di smetterla di essere noi a pagare, di smetterla di avere paura, questa cosa più essenziale. Insomma, una volta identificato il nemico, che gira di gira è sempre lo stesso a molti volti, si chiama PT, si chiama Expo, si chiama Grandi Opere, si chiama TAV, ma dietro ha le stesse facce e gli stessi conti in banca condivisi probabilmente, quindi una volta identificato la controparte è giusto ed è sacrosanto che proviamo tutti insieme, con parole d'ordine diverse, con forme, con pratiche diverse, a passare al contrattacco, perché non si può soltanto sempre subire. Il primo maggio ha anche questa funzione sociale storica, diciamo, per cui c'è, cioè, una giornata in cui non sono i proletari, non sono i giovani, non sono i disoccupati o gli sfruttati di ogni sorta che devono avere paura, ma insomma un po' al contrario. Quindi ci immaginiamo questa May Day con tanti spezzoni, abbiamo chiamato spezzoni sociali, cioè per cercare di in qualche modo disarticolare almeno in parte, poi vedremo se ci riusciremo, come dire, dei raggruppamenti unicamente politici, ma ci immaginiamo che le lotte reali, le lotte che esistono in questo paese, in questa città, abbiano lo spazio dentro quella giornata. Se ne sono andati a comporre per il momento tre, ma stiamo valutando che possano anche aumentare. Ci sarà uno spezzone delle lotte territoriali in testa, che raccoglierà tutti i vari comitatini e comitati, a partire chiaramente dal comitato Notav, ma anche tutti, appunto, il comitato contro la TEM, contro tutte le piccole o grandi opere, a partire da, non solo Sblocca Italia, le Trivelle, eccetera, eccetera, eccetera. La testa sarà aperta da 10 bande italiane e straniere che suoneranno, appunto, con le fanfare. Poi ci sarà un secondo spezzone che si chiama Scioperiamo Expo, che vede diverse altre cittadine che compongono la rete, più altre componenti nazionali, che insomma tutto il percorso dello sciopero sociale. Bisogna vedere se i sindacati di base saranno in questo blocco del lavoro oppure faranno un altro quarto spezzone, ma insomma questo poi lo vedremo. Poi c'è un altro terzo spezzone che abbiamo chiamato del conflitto sociale, delle lotte sociali, in cui convergono tantissime istanze reali che si danno oggi, ad esempio quella della lotta per la casa, ma anche stiamo cercando di capire insomma la lotta dei facchini, un'altra serie di componenti sociali, uno spezzone che verrà animato anche dai quartieri popolari di Milano, che in questi mesi hanno, come avrete visto sicuramente, dato il loro contributo insomma a rompere la pacificazione, a rimandare la paura al di là, cioè, al di fuori dei quartieri popolari, delle case occupate, e rimandarla insomma a chi gestisce questa città con l'obiettivo di accumulare, di fare milioni sulla pelle dei proletari. Sarà uno spezzone, ci auspichiamo, molto partecipato e anche molto determinato a mettere in campo la giusta dose di conflitto, perché di questo stiamo parlando. La sfida è quella di sperimentare il massimo allargamento possibile, quindi una partecipazione ampia e popolare, non soltanto militanze, ma anche appunto allargata, estesa a pezzi di città, pezzi di classe, però che possano insieme, in maniera organizzata, praticare il giusto livello di conflitto, che sarà quello che si deciderà insieme a questa costruzione politica che ci sembra ampia e attraversabile. E poi in seguito a questi spezzoni ci sarà un enorme corteo, anche abbastanza spontaneo, come dire, anche abbastanza libero, in cui conviveranno tantissime anime, da quello spirito più classico della May Day, da camion musicali a un sacco di persone anche disorganizzate che magari normalmente non condividono le assemblee o i momenti organizzativi con i compagni, però quel giorno sentono questo richiamo, insomma, la May Day, questa funzione. Come veniva detto in assemblea, c'è almeno già un obiettivo che abbiamo raggiunto, che ce lo siamo posti mesi fa, ed è quello di fare in modo che in tanti insomma si sentano queste giornate qui come un momento storico, diciamo, come un momento in cui è importante esserci, anche se non è chiarissimo fino al dettaglio che cosa accadrà. Il richiamo ad esserci è fortissimo, lo stiamo vedendo e stiamo vedendo che sempre di più lievita e va avanti. Quindi insomma ci immaginiamo queste giornate così all'insegna della gioia, del conflitto. Anche il 2 di maggio non siamo stanchi, non siamo intenzionati a tornarci a casa il 2 di maggio, ma bensì dobbiamo provare con mille modi diversi ad andare verso i cantieri di Espoo, perché in tutto ciò li stiamo toccando, perché ovviamente non sono vicini fino alla città, ma non sapremo neanche se saranno effettivamente finiti o no, perché è probabile, insomma, nell'aria che ci sia un rinvio dell'inaugurazione, non ce ne sono notizie certe, ma stiamo a vedere, e comunque sì, che stiamo immaginando. Chi una critica al MAS, chi una gita in metropolitana, chi una passeggiata, chi un'arrampicata, insomma con la fantasia, la determinazione, la volontà è quella di andare, di autoinvitarci in massa a questa grande abbuffata da cui in teoria siamo esclusi e vedere un po' cosa può succedere. Non nascondo che c'è molta tensione in città, nel senso che anche noi compagni che siamo qua, se percepiamo che se siamo calcati in una sfida di cui c'è. Alcuni fattori non ci sono ignoti, nel senso che Milano non si è mai misurata con una sfida del genere, almeno nel breve tempo. Ricordiamoci che l'ultimo colpo nazionale che c'è stato a Milano è stato quello per il 10° anniversario della morte di Dax, qui anche voi sicuramente che ci sentite, eravate tutti qua, però a parte quell'esperienza lì non ce ne sono tanti altri, cioè, momenti nazionali, internazionali, così. Quindi c'è pure una certa dose di rischio e una certa dose di curiosità, di incognita rispetto a quello che si sta andando a costruire. Cioè, nonostante l'organizzazione è buona, la presa a pene è alta, l'energia, insomma, con tutte la compattezza c'è, nonostante vi potete immaginare la difficoltà di costruire cose del genere partendo da, insomma, anime diverse, forme organizzative molto diverse in questa città che ha tantissime esperienze diversificate, però per il momento teniamo botta. Volevo dire solo un'ultimissima cosa. Dai. Rispetto a questo clima di tensione, a questa controinsurrezione preventiva, come ci piace chiamare, che abbiamo visto a mezzo stampa, hanno avuto sono senza vergogna, come sempre hanno avuto anche l'indecenza e l'infamità di rievocare Genova, dicendo questa volta vogliono fare solo casino, vogliono rompere tutto, non vogliono, però cercano però il morto, sono permessi di dire questa schifezza. E noi riteniamo che questa operazione qua adesso, poi qualche giorno dopo, tutti sappiamo cosa è successo, cioè il tribunale ha confermato quello che i movimenti hanno sempre sostenuto, non hanno certo bisogno di un tribunale che lo sancisse, cioè che a Genova hanno torturato la Diaz, hanno torturato Porcanieto, hanno torturato le strade, lo sapevamo già, comunque sia. Sì, 15 anni di ritardo sono un po' troppi forse. Sì, ma poi non è solo che ci aspettiamo, come dire, una conferma o una rettifica di qualcosa, è una nostra storia, farebbero bene soprattutto i giornalisti a lasciarla, insomma, a togliere le loro manacce unte dal nostro percorso collettivo. Nonostante abbiamo compreso che questo tentativo qui aveva due obiettivi. Il primo è quello, come abbiamo già visto ad esempio per il 19 ottobre, di tentare di scoraggiare la partecipazione, e pensiamo che da questo punto di vista non gli sia riuscito. Ora mancano 20 giorni, vediamo cosa succederà nei prossimi. E che l'altro tentativo era quello invece più rivolto a chi si sta organizzando, cioè diciamo di intimidire, terrorizzare come al solito, di far abbassare i toni, inserire l'elemento della paura, del terrore, quindi cioè mettere un'ansia, uno stress in più che avesse l'obiettivo di logorare i nostri nervi, dico nostri, non chiaramente i nostri soggettivi, i nostri di tutti quelli che ci stiamo mobilitando, che ci stiamo dando da fare per costruire queste giornate. Beh, anche da questo punto di vista rimandiamo al mittente il tentativo, siamo abituati a una guerra di logoramento quotidiana che passa con gli sgombri, con gli arresti, con mille denunce che fanno a tutti quanti, quindi non sarà di certo qualche articoletto spaventapasseri a impaurirci. Il 1° maggio non è una giornata della paura, il 1° maggio è una giornata della forza, della gioia collettiva, del coraggio, e se qualcuno deve avere paura o deve avere un'ansia sarà il questore, sarà il ministro, sarà l'amministratore delegato di Expoo, per la figura di merda planetaria che sta facendo, sarà Matteo Renzi che continua a riempirsi la bocca di buffonate, la verità è tutt'altro in questo paese, e quel giorno le lotte lo dimostreranno. Perché abbiamo ben altre cose da esporre, ben altre cose da far vedere al mondo rispetto alla miseria di plastica che ci propinano loro. Bene, Sid, ci uniamo assolutamente a questo invito, perché è molto più che una speranza, insomma, quel che abbiamo, tutto quel che abbiamo per rendere vero quel che auspicavi, ce lo metteremo senz'altro come trasmissione che poi fatta da giovani che ha la pretesa anche di parlare ai nostri coetanei. Abbiamo, diciamo, forse anche bisogno e necessità di andare il 1° maggio a mostrare che non ci sono, i giovani non sono quelli, le migliaia di volontari che si fanno sfruttare col sorriso, non sono una figurina interscambiabile con una X in faccia senza rughe, bensì un qualcosa di molto più complesso che ha delle necessità a cui Expo assolutamente non risponde. Sid, grazie mille, sicuramente grazie a voi, seguiremo, continueremo a seguire gli aggiornamenti su Milano e appunto circondario, e continueremo fino al 1° maggio a rilanciare un appuntamento che sia di lotta. Grazie alla radio, ci vediamo presto, alla prossima. Ciao Sid, grazie mille. Breathing, looking and bleeding. Mama, she told me that he was. soltanto la mia equazione. Molta più ragione, meno sedimento. C'era una soluzione, ma la raccolta il vento. Verrà il momento, la frazione di un istante. Se l'ultimo argomento è un argomento agghiacciante. L'aumento costante di un ingrediente instabile. L'elemento portante di una mente psicolabile. Innegabile che niente abbia un valore. Oppure semplicemente un inspiegabile errore. La mente è peggiore. Peggioramento sono solo parole, soltanto parole al vento. Ma sarà servito essere uscito in tempo. Per chi non l'ha capito è finito l'esperimento. 100% al vero ci va un momento. Avevo già avvertito chi sa parole al vento. Ma sarà servito essere uscito in tempo. Per chi non l'ha capito è finito l'esperimento. 100% al vero ci va un momento. Avevo già avvertito chi sa parole al vento. Allora 11:52 sui 105.250 le libere frequenze di Radio Blackout. E allora, mentre cerchiamo di metterci in contatto con studenti medi da Alessandria, da Torino, non ci interessa da dove rispondete, andiamo avanti con un po' di musica. Next number, I'd like to return to the classic. Classic. I'm better than I ever been. I'm Rakim, the fiend of a mic. Is y'all ready for 2007? It's now another drought. Everybody's a killer. Wow, we bugging out. Just 86 showing the crowd what I'm about. And they still want to know when the album coming out. Ask the teenagers, OGs, and ask the kids what their definition of classic is. Timeless, so age don't count in the booth. When your flow stays submerged in the fountain of youth. Ain't no doubt in the truth, I'm off the meters. Everybody co-signing, even non-believers. Since I came in the door, became one of y'all's leaders. In the fresh pair, Air Force One sneakers. Uptowns, we call them uppies when they on divas. Probably one with KRS-One teachers. Nas, made you look for all the heaters. I bet your car had them on when he walked with Jesus. These classic. Live straight, classic. I'm better than I ever been. I'm everywhere, you never been, and better than I ever been. Classic. Straight classic. I'm better than I ever been. Foot down, represent to the fullest. Nas, I rock well. Perseverance. See the fake hustler rapper, to them it hurts to hear this. Oh, you went platinum, yeah, that's nice. Now let me see you do the same thing twice. Three times, four times, then a couple of more times. Please, you're amateur night, it's showtime. It's one life to live, so live it the best you can. The world could use one less man. Not enough air, not enough car factories to manufacture new vehicles, sedans, and vans. When they do make the whip, you like your chips ain't right. By the time you could afford it, the car ain't important. In the streets, I'm in, it's just iron. cops keep firing in my environment. Leaving you slumped, then they drive home far from the hood, brothers they eager to jump on. I like to be the wall that they toast up on. I like to see them fall, guilty for doing wrong. I'm classic like the Air Ones, the hustler shoe. That's what I'm accustomed to, yeah. Classic. Live straight classic. I'm better than I ever been. Time. I'm everywhere, you never been, and better than I ever been. Classic. Live straight classic. I'm better than I ever been. Time. Of course, we have Blastmaster KRS-One. How many of y'all got criminal minded? You, y'all, don't be blinded. Me, I got no jewels on my neck. Why? I don't need them. I got your respect. KRS-One, 20 years I rock. I do it for JMJ and Scott LaRock. This hip-hop, and we's a nation. Don't you want to hear more KRS on your radio station? Instead of broadcasting how we smoke them teams. On the radio, we need to hear more local MCs. Where you at? Come on, where you at? This is the difference between MC and rap. Rappers spit rhymes that are mostly illegal. MCs spit rhymes to uplift their people. Peace, love, unity, having fun. These are the lyrics of KRS-One. Classic. Live straight classic. I'm better than I ever been. Time. I'm everywhere, you never been, and better than I ever been. Classic. Live straight classic. Force runs, keep it poppin'. Classic. E allora, parole ribelli, come sempre dalla parte del boom bap, si è riuscito a collegare con noi Eugenio. Eugenio, ci senti? E non è vero, non si è riuscito a collegare con noi manco per niente. Allora riproviamo a farlo collegare con noi e andiamo avanti con questa difficilissima puntata in solitaria. Vagabondo, ma se tu penses que le monde écrade, appelle-moi camarade. Si comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi, refuser d'obtempérer si t'en as marre de ressembler à un mouton, si t'as l'audace de Rosa Parks, c'est t'as compris Franz Fanon. Appelle-moi camarade si tu sais pas rester dans le rang, si t'as la flamme, l'espoir et le couteau entre les dents, si t'enrages quand t'as un flic te dévisage, si t'étouffes comme un tolard dans sa cage. Appelle-moi camarade si t'as capté les mécanismes, les rouages du système, comment ils neutralisent, comment ils manipulent, désinforment et nous divisent. Reste lucide parce qu'il est l'heure qu'on se mobilise. Si tu penses qu'on est du même côté de la barrière, du même côté du mur, du côté lanceur de pierre, du côté des larmes, du côté de la misère, du côté palestinien, tu peux m'appeler mon frère. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Appelle-moi camarade, parce que mes larmes sont les tiennes sont les miennes, bref nos peines sont les mêmes, on se démène pour éviter l'abattoir. Ouais je me démerde, merde sans perte de vue l'étoile qui m'a dit pas toi. Je manie la plume comme Marcos, la rage une cassos, prête à lâcher le mic s'il faut mourir pour la cause. Je rappe la force, je rappe l'espoir, je rappe la fratrie, issue d'une génération endormie par la matrice. Enfant de l'insomnie, bordé par le macadam, percé par le vague à l'âme. Appelle-moi camarade, cause d'un monde bien malade, où tout le monde s'en bat la rage. Braque les haut-parleurs avec des rimes dans lesquelles parle la rage. Anti-norme, impossible à encarter, autonome comme les anaracrans, comme les frères de quartier. C'est l'heure de s'unir car l'urgence nous rattrape, dans le meilleur ou dans le pire, on est ensemble camarades. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Ils ont enfermé nos rêves, braqué nos idéaux, ils ont cadenassé nos révoltes, ils ont fait taire ceux qui parlaient trop. Ils ont jugé que nos colombes obscurcissaient leur ciel et les ont toutes butées de leur sang, ils ont fait leur miel. Silence on tue, silence on assassine, on élimine tous ces illuminés qui voudraient changer le scénario du film. Leurs dessins, on les connaît par cœur, je veux pas te refaire le tableau. Ce monde est hardcore, patrie, pétrole et pouvoir, leur chef-d'œuvre du grand art, y'a qu'à regarder pour voir. On est mort sans savoir, comme asphyxié, en perte d'oxygène, comme enchaîné à la destinée de cette cité où la bourse règne. J'étouffe, j'aimerais tellement changer d'air, mais au fond de moi je sens bien que c'est ce putain d'air qui nous faut changer. C'est une simple question de survie, bien plus qu'une croisade, armée de l'ombre en embuscade, pas mon camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, E allora siamo in collegamento, dovremmo essere riusciti a collegarci finalmente con Eugenio. Eugenio, ci senti? Vabbè, qua non capisco perché c'è un complotto a mio danno in questo martedì mattina. Bene, allora vi parlerò io della marcia popolare No Tav Terzo Valico, mentre Eugenio chissà se ci ascolta, non ci ascolta, chissà se è collegato, boh, ormai l'abbiamo perso. Misteri del mixer. Come i misteri stagionali, oggi c'è incredibilmente l'estate, incredibilmente questo mixer non si attacca al telefono. E vabbè, dai, è andata così. Insomma, questo sabato 18 aprile, marcia popolare ad Arquata Scrivia. Arquata Scrivia, passato varie volte, ecco questo è Eugenio che chiama, lo sentite? Passato varie volte per questi microfoni, perché diciamo roccaforte della lotta No Tav Terzo Valico. Bene, questo sabato l'appuntamento è ancora una volta lì. Pronto? Ciao Eugenio. Sì, ora riproviamo a ristabilire il collegamento un attimo. Bene, Eugenio si chiedeva cosa succede, ma io veramente non so cosa rispondergli. Però vabbè, continuiamo avanti. Show must go on. Dicevamo, i No Tav Terzo Valico questo sabato sono particolarmente determinati a farsi sentire, tant'è che dopo, e giustamente verrebbe da dire, dopo l'ignobile telefonata venuta fuori in cui il grande terrore, diciamo, della dirigenza italiana, quale di fatto era non tanto che effettivamente la messa in sicurezza dei territori, come abbiamo visto che cosa è successo in Liguria, che cosa è successo negli stessi territori che dovrebbero interessare il passaggio del Terzo Valico, e soprattutto abbiamo visto il collegamento tra la devastazione di quei territori che hanno accusato gli alluvioni più di quanto non avrebbero fatto effettivamente con i cantieri, quindi l'impatto ambientale di questi cantieri non solo è a lungo termine ma è assolutamente immediato e tangibile. Allora non paghi di aver devastato tutta quell'area, coloro che hanno mandato, che hanno firmato appalti e piani regolatori vari, si stavano preoccupando che i soldi del Terzo Valico non andassero non andassero a mettere in sicurezza territori dopo gli alluvioni di Genova e dintorni. Bene, ovviamente questo è ancora una volta ricorda in maniera molto macabra, è passato da poco il 6 aprile l'anniversario del terremoto all'Aquila. Bene, verrebbe da dire diciamo con un significato diverso, però fanno male queste parole tanto quanto alle 3:32 io ridevo. E allora ricordiamo appunto, se vicino a tutti gli aquilani, 3:32 io non ridevo, soprattutto a me non me ne frega niente, e come non frega niente a nessuno di No Tav Terzo Valico, di avere l'alta velocità che passa in zona e poi un territorio che alla prima goccia di pioggia si sfalda, perché è stato ormai compromesso in maniera irreparabile. Allora l'appuntamento, come dicevamo, è sabato 18/4 del Quata Scrivia ad Alessandria, eventualmente per chi si vuole muovere. Novi Ligure, Serravalle e Tortona si danno appuntamento rispettivamente ad Alessandria ore 13 stazione centrale, da Novi Ligure alle ore 13:43, da Serravalle Scrivia ore 13:50 e da Tortona ore 13:25. Allora andiamo, diciamo, abbiamo visto già con vari appuntamenti No Tav come la partecipazione viene osteggiata, lo ricordava prima il SID da Milano rispetto a una macchina mediatica. Ecco, oltre alla macchina mediatica noi volevamo aggiungere quella che proprio fisicamente si interpone tra te e il treno quando vuoi andare a un appuntamento. Bene, allora andiamo tutti insieme, garantiamo tutti e tutte la partecipazione al corteo, e ora andiamo a sentire un po' di sano rap romano mentre cerchiamo di far dire due parole anche a Eugenio. Au, gente del Borgata, colle del fomento, a voce del popolo, Roma. Ah sì, è la voce del popolo, Ronzu All Stars, e ci puoi credere, dalle strade più sporche, ah sì, au.

E in breve, Eugenio, perché siamo andati lunghissimi, visto, diciamo, si è preso un po' troppo tempo l'Expo, ma vista la rilevanza dell'evento è importante, ma soprattutto è un altro fronte aperto contro le grandi opere. Infatti poi andremo anche a parlarne tra il serio e il faceto, come dicevamo in apertura di puntata, ma adesso siamo ancora in Piemonte con i Notav Terzo Valico. Eugenio, parlaci un po' dell'appuntamento di questo sabato. Sì, allora guarda, l'appuntamento di questo sabato è una grossissima manifestazione che abbiamo deciso di indire anche in relazione a tutti gli avvenimenti che si sono verificati con le varie procure, insomma, tutti i pezzi grossi di tutti delle grandi opere che insomma sono iniziati a cadere, e soprattutto la giornata del 18 deve essere messa in relazione a quanto avverrà domani, cioè il tentativo da parte di COCIV di espropriare un'area che per loro è di fondamentale importanza, che da 3 anni è nelle nostre mani. Noi abbiamo costruito un presidio su quest'area, che appunto la seconda parte dell'area dove deve sorgere il cantiere più importante per loro in Basso Piemonte, che è il cantiere di Radimero, dove dovrà sorgere appunto il vero e proprio tunnel di valico, cioè il cantiere dove dovranno calare la talpa e iniziare lo scavo vero e proprio della galleria. Ora è il terzo appuntamento che lanciamo in difesa del presidio. Come nelle giornate del 10 settembre e del 19, cercheremo di essere in tantissimi domani per impedire appunto la presa in possesso di quest'area, mentre la manifestazione del 18 in qualche modo sarà la coda di questa giornata, e dovrà essere anche modulata in relazione a quanto deciderà di fare la questura, le forze dell'ordine domani. Bene, scusa, sono presa dai fumi della primavera. Sì. Direi che non c'è tantissimo da aggiungere, un po' perché non c'è altro da fare che presentarsi alle 14 ad Arquata Scrivia. Va bene, allora ci vediamo tutti ad Arquata sabato. Grazie mille. A sabato, grazie a te. Grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao. And I love these streets, got the sun on my face, fuck taking it for granted. I just love how this feels, goddamn it. Every day we complain about the goddamn heat, but low key, that's the reason I love these streets, got the sun on my face, fuck taking it for granted. I just love how this feels, goddamn it. This is the day I'ma remember forever. And I love these streets, got the sun on my face, fuck taking it for granted. I just love how this feels, goddamn it. Every day we complain about the goddamn heat, but low key, that's the reason I love these streets, got the sun on my face, fuck taking it for granted. I just love how this feels, goddamn it. 12:15, come dicevamo in apertura di puntata, siamo in collegamento con Massimo Giovara. Ciao a tutti. Allora, ciao, Massimo, parlaci un attimo di questo progetto che state portando avanti, perché diciamo voi avete fatto, in qualche modo state facendo un viaggio nel tempo, vi siete proiettati a 20 anni dopo l'Expo e ci raccontate che cosa succede secondo voi. Allora, sostanzialmente, dunque, il progetto è un progetto di Sistema Torino, che è un gruppo di persone, un'erbaccia spontanea che è nata 1 anno e mezzo fa. Li conosciamo, ne abbiamo parlato varie volte a questi microfoni, abbiamo rimandato al blog, anzi invitiamo chi ci ascolta ancora a seguirlo, perché diciamo ci dà aggiornamenti importanti, anche ha seguito tantissime delle vicende legate alle trasformazioni urbane, ma soprattutto in particolare diciamo il legame tra le modificazioni della città e l'ingrossarsi del portafoglio di qualcuno. Esatto, dunque con questo nuovo spettacolo Exporto 2022 stiamo sul pezzo, già dal nome si capisce che avrà in qualche modo a che fare con l'Expo, che debutterà il 1° maggio, inavvertitamente il 1° maggio, proprio una grande opera di questo tipo, che paradossalmente ci ha anticipato, in quanto il grottesco, la realtà a livello di grottesco supera la nostra fantasia, per cui, come tutti sappiamo, non è ancora terminata, ma noi siamo andati oltre, abbiamo pensato cosa succederà fra 7 anni, e tutte le grandi opere, tutte forse, ma diciamo che la gran parte di opere... Massimo, non ti sentiamo bene. Sono con lì. Fermati, non camminare solo, facciamo così. Sono fermissimo. Ok. Mi sentite? Sì. Pronto? Ora sì, perfetto. Allora, noi abbiamo anticipato, ci siamo chiesti che cosa succederà all'Expo fra 7 anni. Abbiamo visto cosa è successo ai siti delle Olimpiadi a Torino, cioè sostanzialmente niente se non sfacelo e abbandono. E noi invece abbiamo rilanciato, abbiamo pensato che nel 2022 nel sito dell'Expo ci sarà un grande porto marittimo commerciale che collegherà la pianura padana con il canale di Suez. E perché questo? Abbiamo fatto un esperimento mentale, una dimostrazione per assurdo, per spiegare in maniera avvincente, divertente, ma anche abbastanza drammatica, attraverso toni grotteschi, qual è il cortocircuito che c'è fra la svendita del patrimonio immobiliare italiano, i partiti, il finanziamento dei partiti e le grandi opere. Le grandi opere fanno sognare gli italiani, ma c'è sempre bisogno, come una droga, di una nuova grande opera ogni tot tempo, perché tendenzialmente non vengono mai finite. Un riferimento chiaro ed evidente è la TAV, sulla quale abbiamo appena sentito compagni e le compagne del movimento No TAV Terzo Valico che rilanciavano sull'appuntamento di Arquata Scrivia, ma infatti questa volevo così ricordavo chi ha memoria di diciamo umorismo No TAV, c'era l'anno scorso partì proprio questa campagna che parlava del nuovo porto di Susa, quindi esatto. Effettivamente gli annunci poi non è tanto un discorso di voler fare tutti la stessa battuta, quanto che gli annunci della controparte a favore di poi quelle che sono queste grandi opere inutili suonano veramente grotteschi talvolta. Ma il porto internazionale di Susa è in parte anche un'idea di Stefano Durando, che fa parte di Sistema Torino, e l'idea di Exporto nasce proprio da lui. Perfetto. Poi è stata elaborata, Maurizio Pagliassotti ha già scritto il testo, io lavorando nel teatro e nello spettacolo, però della rielaborazione e della messa in scena. Questa cosa qui ovviamente non chiediamo soldi, come succede di solito nel teatro, a fondazioni bancarie o a istituzioni pubbliche, ma chiediamo, anche per verificare se c'è un interesse, se si allarga la massa critica, lavoriamo attraverso le piattaforme di raccolta fondi. In questo caso ci stiamo appoggiando a buonacausa.org/cause/exporto2022. E stiamo facendo tantissime presentazioni, io non so più dove trovare il tempo per fare le cose, e quindi se ci cercate su internet e in giro per la città, ma anche per la valle, ci trovate, e trovate anche delle presentazioni che sono un ibrido tra una presentazione molto seria e una presentazione già spettacolare, con personaggi fittizi, giornalisti, politici, ingegneri che parlano di quanto sia figo fare questa nuovissima e assurda grande opera. Ma se non sbaglio, scusa se ti interrompo, avete tra pochissimo un appuntamento proprio a Torino in via Balbo. Esatto, alla Scatassuna, e ci sarà una festa e ci saremo più o meno tutti e ci saranno anche i nostri simpatici personaggi, tra cui l'ingegnere Smart Creative City Manager che già i nostri fan conoscono, Giovanni Giovannini, poi ci sarà Francesco Baracco Balma che si occupa della comunicazione e del reperimento dei fondi e probabilmente ci sarà anche Pier Fausto Tromboni, il nostro giornalista di vecchia data e ex inviato speciale. Direi un programma molto ricco. Vuoi aggiungere qualcosa, Massimo, o altri contatti su cui vi possiamo seguire, appuntamenti in cui possiamo goderci dal vivo questo spettacolo, con queste presentazioni che voi state facendo? Io, diciamo, abbiamo parlato di Sistema Torino molto spesso a questi microfoni grazie alla Cavallerizza, ricordiamo anche i talk shock, questo format che inscenava quella che poi la farsa tragicomica, appunto, che sono anche le grandi opere, che sono anche appunto tutte quelle retoriche con cui poi veniamo riempiti dalla mattina alla sera per legittimare cose che effettivamente rispetto alle priorità che il paese avrebbe sono veramente al fondo della lista. Ma noi lavoriamo molto su internet e quindi io consiglio a tutti di visitare e mettere mi piace sulla pagina Exporto 2022, credo che siamo soltanto noi con questo nome, sulla pagina di Sistema Torino anche stessa cosa, anche qui dovremmo essere unicamente noi, e sul blog sistematorino.blogspot.it, e poi di andare a visitare anche la pagina del crowdfunding che, ripeto, è buonacausa.org/cause/exporto2022. Va bene, Max, grazie mille di questo tempo che ci hai dedicato. Ci vediamo in via Balbo, vuoi ricordare l'appuntamento solo? Domani, sì. Giusto? Sì. Perché mi perdo i pezzi pure io. Domani sarà, credo, intorno alle 21:30, insomma, quell'ora lì. Alle 21, precise, non ci credo, comunque venite tutti per le 21 alla Scatassuna, che è, mi ricordi, in Corso San Maurizio? Numero? No, Corso Regina, no, Corso 47, Regina, nello 47. Specifico, questo appuntamento è, diciamo, dentro la 10 giorni di via Balbo, perché appunto oltre grandi opere, anche piccole, diciamo, nelle nostre città si creano anche piccoli deserti, proprio, ecco, diciamo, quella di queste giornate è una piccola festa, anzi piccola grande, perché dura un po' e soprattutto ha un programma estremamente ricco che appunto comprende riflessioni più o meno agevoli rispetto all'orario, ma giochi, musica, spettacoli. Ieri c'è stato il Cineforum, stasera ci sarà il karaoke, quindi chi più ne ha più ne metta. Ammazza. Una festa di quartiere in pieno stile, una festa per accogliere la primavera in banchiglia e per dimostrare che via Balbo è di chi la ama, né spaccio, né fasci, né madama. Grazie mille, Max. Grazie, ci vediamo in via Balbo domani. A presto, ciao ciao, a grazie te. E allora, bene, ancora ricordo appunto questo appuntamento di la festa di quartiere in via Balbo, perché via Balbo non è una zona morta. Si può restarsene a guardare oppure andarsene alla sveta. Sparsene dei grammi è rimasta l'ultima scelta. È da scherza, adesso il cielo può attendere. Mi sa che anche stavolta più in basso non si può scendere qua. Tocca prendere le cose come vendono. Se il fuoco che vuoi accendere in troppi ora lo spendono. Beh, che si tengano le loro quattro regole. Il vostro è solo il chiostro, il nostro segno è indelebile. Non c'è un colpevole nel regno degli anonimi. Ed è l'anno domini del dio dell'anno e tonomi. E perché? Tra sti fenomeni in questione è più debole degli uomini che fotte la nazione. Se la sua versione cambia come cambia gli abiti, la sua realtà è finzione come i suoi reality. Qua la soluzione a volte è peggio del problema. Sono i soliti ignoti nel solito sistema. Forme geometriche nel buio che ci accompagna. Metriche armetiche in più a tenuta stagna. Come repliche e film senza trama. Come piranha che hanno visto carne umana. Ci si sbrana inferno e nirvana. C'è il mondo se il secondo si allontana. Quando chiama? Siamo un eco distorta. Chiamo il panorama col nome di zona morta. Sono suoni che mordono,

years to die from the seven deadly drills. 80-year-olds getting found with 9 mils. It's 10 p.m. where you see that. What's the deal? He on the hill pumping krills to keep they bellies filled. Lighting the ass with heavy steel. Sights on the pretty shit in life. Young soldiers trying to earn their next strike. When the average minimum wage is 5.15, you best believe you gotta find a new grind to get cream. The white unemployment rate is nearly more than triple for black. So frontliners got their gun in your back. Bubble and crack. Jewel theft and robbery to combat poverty and end up in the global jail economy. Stiffer stipulations attached to each sentence. Budget cutbacks but increased police presence. And even if you get out of prison, still living, join the other 5 million under state supervision. This is business. No faces, just lines and statistics. From your phone, your zip code, the SSI digits. The system break man, channeling women in the figures. Two columns for who is and who ain't niggas. Numbers is hard and real and they never have feelings. But you push too hard, even numbers got limits. Why did one straw break the camel's back? Here's the secret. The million other straws underneath it. It's all mathematics. Mighty most definitely. It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science. What are we talking about here? Mighty most definitely. It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science. What are we talking about here? E allora 12:32 andiamo a in conclusione di puntata, perché sulle libere frequenze di Radio Blackout il GR comincia sempre in orario. Diamo due aggiornamenti, come dicevamo in apertura, dal mondo. Non siamo riusciti a sentire gli studenti medi di Torino per rilanciare verso l'assemblea di sabato, no Expo, rilanciamo noi, ci facciamo eco da questi microfoni, l'appuntamento è appunto questo sabato in pomeriggio. E andiamo quindi avanti a seguire un po' di notizie dal mondo della formazione, che a livello di conflittuale sta esprimendo molto in altri paesi, perché in Italia ancora stiamo cercando di lavorarci su. Ieri mattina è cominciata, anzi sabato mattina verso le 11 è stata sgomberata l'Università di Amsterdam. Avevamo fatto un lungo servizio, cioè un approfondimento su questa occupazione, perché è il movimento studentesco olandese più importante dal 69, a detta degli olandesi stessi, e quindi sicuramente non potevamo lasciarli inosservato. Gli studenti, in concomitanza con anche i lavoratori e ricevendo l'appoggio di molti professori, avevano dato vita alla nuova università, un tipo di mettendo al centro delle loro proteste proprio la formazione e il ruolo che gioca, nel senso che un'università sempre più che costa, perché nel nord Europa poi costa anche di più, però sempre più volta al profitto, di cui hanno visto nel giro di pochissimi anni abbassare radicalmente l'offerta formativa a fronte di un alzarsi delle tasse. Bene, gli studenti olandesi hanno deciso di dire no, ma appunto non solo, hanno deciso di protestare direttamente contro la governance universitaria, hanno deciso di autodeterminarsi, di essere di non avere altra governance che non di non avere governance in sé, ma di mettere in atto quello che è un processo di autoformazione, di controformazione, non saprei bene come chiamarla. Sicuramente un esperimento interessante. Purtroppo questo sabato però l'università è stata sgomberata e sicuramente sappiamo che 9 persone fino a mezzogiorno risultavano in custodia dalla polizia, ma gli occupanti non si sono assolutamente demoralizzati, hanno ugualmente svolto le iniziative in programma nel piazzale di fronte al rettorato, nonostante fossero circondati dagli agenti antisommossa, e nel primo pomeriggio hanno poi organizzato un corteo spontaneo. Noi auguriamo alla lotta di continuare e rimarremo sicuramente sintonizzate. L'altra notizia viene da non riusciamo, come dicevamo, a sentire i compagni del collettivo Solidaria 43, ma speriamo di potervi annunciare presto di non solo sentirli, anche vederli, perché come dicevo in apertura sono in Italia in questo momento e abbiamo visto i lunghissimi mesi e l'inesauribile determinazione, perché questa è una protesta che va avanti da 6 mesi. L'uccisione di 43 normalistas è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso ormai pieno da anni di desaparecidos. Ma andiamo in Canada, Montreal, in Nord America. La polizia sgombera l'università, scontri e arresti. Ricordiamo che dopo il ciclo di lotte di qualche anno fa, che fu vinto dagli studenti canadesi, le tasse universitarie erano rimaste invariate nonostante la proposta di aumentarle notevolmente. Bene, qualche anno dopo il governo ci riprova, il governo Couillard ha fatto questo nuovo disegno legge perché per aumentare notevolmente le tasse universitarie. È da allora che gli studenti indicano cortei, insomma fanno sentire qual è la loro opinione al riguardo. E questo l'abbiamo visto anche nelle lotte che abbiamo trattato nell'ultima puntata, il collegamento con Eden, il compagno spagnolo che ci parlava della loro lotta contro il 3+2. Bene, e ci parlava della contrapposizione tra i sindacati studenteschi e il movimento studentesco, diciamo, quindi la rappresentanza studentesca e gli studenti stessi. Di questo avevamo parlato, diciamo, di quanto non abbia alcun senso la rappresentanza studentesca, soprattutto in questo momento, e di come l'abbiano dimostrato le sole 3.000 persone che sono andate a votare alle elezioni studentesche a fronte di 70.000 studenti in università. Bene, la storia si ripete, evidentemente c'è bisognerebbe farsi due domande, e questo lo dico direttamente a coloro che si occupano di rappresentanza studentesca in questa città, nella speranza che non solo ascolti ma abbiano anche orecchie per sentire, perché sembrerebbe che non ne abbiano tante. Fatto sta che evidentemente è proprio questa forma che è in crisi, perché se in Italia, in Spagna e a Montreal, che non hanno così tanto in comune, diciamo, non sono proprio territori uguali, si dà lo stesso contraddizione, forse sarà il momento di ascoltarla o farla esplodere. Bene, quindi nonostante i sindacati studenteschi avessero dichiarato che non era il caso di continuare la protesta, gli studenti hanno pensato bene di barricare e la polizia ha pensato bene di rispondere a sua volta. Quindi abbiamo notizie che in un centinaio di poliziotti hanno tentato di forzare le barricate, finendo per sfondare le porte dell'università, mentre all'esterno il picchetto degli studenti veniva attaccato con lacrimogeni e spray al peperoncino. A fine giornata almeno 22 studenti sono stati arrestati per resistenza e occupazione abusiva, molti dei quali sono stati poi rilasciati solo nella serata successiva. Dopo lo sgombero però diverse centinaia di studenti hanno indetto un'assemblea spontanea in un edificio vicino all'università e durante questa assemblea hanno deciso comunque di portare avanti la protesta. Bene, speriamo che anche questo ciclo di lotte studentesche canadesi vada a buon fine. And she's kind of shy, but she's also good at masking up emotions, so she's fine in the public eye, on the stage. That's where she'll unleash the rage and rap her fucking harder like she's doing here today. Play with fire, yes, like always talk about it, cause when the spark the flame, there's no way to walk around it. I want to burn and just up the truth, some people call me crazy for beacon on, but that's just not living, tripping up a tab, watching tables turn. When the minute all this ages, it's not my concern. I'm lying, even tripping, cause it's me, myself, and I. It's just this world alone, and it's how we're gonna die. High up in the clouds, looking down, it's all I see. When I focus deep enough, it's worth staring back at me. So high up in the clouds, looking down, it's all I see. When I focus deep enough, it's worth staring back at me. So high up in the clouds, looking down, it's all I see. When I focus deep enough, it's worth staring back at me. So high up in the clouds, looking down, it's all I see. When I focus deep enough, it's worth staring back at me. Asymmetrical, perpetual, not bisexual, but I support LD. Big mouth and I don't know how to keep it closed. It's called not giving a fuck, all the gist, and I'm a pro. Ha, oh, ha, shit, there I go. Call me Jordan River, cause I got the never-ending flow. Typical rapper with a huge ego. Not to mention I'm an Aries, so I'm never acting scary. I come up very strong, that's what they whisper. Their boyfriend's still work for this. So tell me why I wouldn't give it to you, sorry ass bitch. You know how hard I work for this. So tell me why I wouldn't give it to you, sorry ass bitch. So high up in the clouds, looking down, it's all I see. When I focus deep enough, it's worth staring back at me. So high up in the clouds, looking down, it's all I see. When I focus deep enough, it's worth staring back at me. So high up in the clouds, looking down, it's all I see. When I focus deep enough, it's worth staring back at me. So high up in the clouds, looking down, it's all I see. When I focus deep enough, it's worth staring back at me. I swear they're staring back at me. I swear they're staring back at me. 12:41, siamo proprio in chiusura di questa mattinata informativa verso il GR che comincia alle 12:45. Come dicevamo in apertura di puntata, come appunto nostro malgrado poi che questi siano temi tutti collegati, esce fuori perché appunto come abbiamo visto che l'Expo non solo diventa un'occasione predatoria per gli avvoltoi che si arricchiscono sulla crisi, ma diventa anche, come spesso accade, occasione di rimestare la memoria. E quindi con l'albero di Benito in mezzo a Palazzo, in mezzo a Piazza Loreto, abbiamo forse toccato diciamo il fondo della settimana almeno. E quindi andiamo direttamente a aggiornarci rispetto a quello che è accaduto a Cremona, per ricordarci sempre che l'occhio sul fascismo va tenuto sempre vigile e che non bisogna fare sconti per nessuno, perché appunto poi non solo già ci sono quei sorci di merda, infami e bastardi, a essere dei pezzi di merda che arrivano in 60 e ti attaccano il centro sociale, ma quando arriva ci si mette la magistratura di mezzo, si riesce a fare anche peggio. Siamo in collegamento con Ludovico. Ciao! No, non è vero, Leopoldo. Leopoldo, sì, non c'è problema. Siamo in collegamento con Leopoldo, davvero, sì, da Cremona, scusa, è stata una puntata difficile, sta impicciata. Sappiamo che ci sono ancora due compagni in carcere, che ieri c'è stato l'interrogatorio. Leopoldo, dacci buone notizie. Ciao, allora sì, ieri ci sono stati due interrogatori, i due compagni in carcere sotto indicazione dell'avvocato gli sono avvalsi la facoltà di non rispondere. Quindi probabilmente gli arresti verranno convalidati, anche perché quello che ha chiesto la detenzione preventiva sarà anche quello che andrà a valutare se convalidarlo o meno. Invece per quanto riguarda i compagni domiciliari, adesso parleranno, l'avvocato ha detto che appunto ci sarà, bisognerà mettere in campo un apparato difensivo per andare a scardinare la ricostruzione faziosa che ha fatto la procura in questi giorni. Ok, quindi diciamo siamo ancora un po', si stanno ancora muovendo le pedine di questo primo giro. Esatto, c'è già stato comunque un ricorso al Tribunale delle Libertà che sicuramente verrà accolto, dato il carattere tutto politico di queste detenzioni preventive, cioè anche è chiaro anche al GIP che sono accuse che non sono mai state, insomma, una detenzione preventiva con un'accusa di rissa aggravata è un caso che non si era mai visto. Cioè, sì, ci dicevano anche appunto in apertura, sentivamo da Milano, ma non solo, il clima è un po' teso in generale, perché esattamente, rientra tutto nel piano di repressione nazionale che già Renzi, quando parlava in Confindustria, aveva annunciato ci saranno degli arresti prima del corso del 1° maggio di Expo. Siamo disposti a fare qualunque cosa per garantire questa vetrina. Esattamente, questo è quello che hanno messo in piedi. Quindi delle detenzioni tirate per i capelli, che sanno benissimo anche loro che andranno a cadere, ma hanno calcolato benissimo i tempi tecnici per riuscire ad impedire che i compagni partecipino al 25 aprile cittadino e al 1° maggio Milano. Quindi ecco, qui si nota il carattere tutto politico di queste detenzioni. Sì, che poi cozza dall'altra parte con l'accusa che i compagni hanno, perché è rissa aggravata e non si sa, diciamo, che... Esatto, addirittura rissa è un reato amministrativo, la rissa aggravata ha un massimo di 5 anni, sappiamo che la detenzione preventiva va da un minimo di 5 anni, quindi anche lì sono riusciti a farla al pelo per il capo di imputazione che hanno, ed è una cosa, un unicum nella magistratura italiana, ecco, questo caso emblematico, ecco. Sì, direi che hai usato proprio la parola giusta. Purtroppo mettiamo anche questo in fila a una serie di non sfortunati, perché non c'entra assolutamente il caso, ma una serie di eventi che ci consegnano un quadro abbastanza preoccupante. Quindi la macchina, diciamo, di ristrutturazione che Renzi ha acceso, di cui gli hanno dato le chiavi, effettivamente non si ferma davanti a nulla, non si ferma neanche davanti a un'aggressione come è stata quella nei confronti del Dordoni, con 60 fascisti che arrivano e tentano di riducono in fin di vita un compagno. Non si è fermato di fronte a tutti gli scandali Expo, non si ferma di fronte a nulla, non si è fermato di fronte agli alluvioni in Liguria. Insomma, non c'è nulla che possiamo sperare venga da quel lato. L'unica cosa che possiamo fare è stringere sempre in una maglia sempre più stretta e inattaccabile le lotte. Quindi rilanciamo assolutamente verso il 1° maggio in maniera strenuamente, sappiamo l'importanza di questo appuntamento, rilanciamo la lotta in ogni territorio, ma soprattutto ci attendiamo notizie per i nostri compagni a Cremona. Certo, sicuramente appena avremo maggiori notizie, anche vedendo se il GIP deciderà di convalidare, come purtroppo ci si auspica, oppure adotti un altro tipo di decisione. Ecco, sappiamo che dall'altra parte un militante di Casa Pound con l'accusa di tentato omicidio è stato rilasciato ai domiciliari. Quindi magari anche il GIP, dato che è nota la forzatura che la magistratura ha voluto fare, magari faccia qualche passo indietro, anche dopo il carattere nazionale che ha assunto la cosa. Vediamo, insomma, ci rimettiamo alla decisione, poi vedremo noi di conseguenza che cosa mettere, cosa porre sul piatto della bilancia per chiedere la scarcerazione, insomma. Sarà un presidio questo sabato. Okay, perfetto. Sì, sarà un presidio cittadino, una forma di doppio presidio, sia informativo al centro sia come saluto al carcere, questo sabato, in cui speriamo di essere più numerosi possibili. Ci sarà una bella risposta da parte della città e rilanceremo sicuramente un pullman che da Cremona partirà per il 1° maggio milanese. Ecco, quindi le lotte non si fermano, stiamo continuando con l'antisfratto, l'importante è continuare con le lotte nel quotidiano per dimostrare che possono mettere in campo quello che vogliono, ma le lotte non si fermano. Bene, guarda, è stato Leopoldo, sei stato abbastanza, direi, esaustivo. Noi assolutamente abbiamo piena fiducia, rilanciamo, ci uniamo a voi, saremo lì sabato, tra i microfoni Radio Blackout sono sempre aperti, ma ricordiamo come nell'immediato post-aggressione Emilio i compagni e le compagne a Cremona sono riusciti a catalizzare quello che poteva essere un duro colpo invece in un momento di grande accumulo di forze. Bene, allora abbiamo piena fiducia che anche a questo attacco saprete rispondere nel migliore dei modi. Grazie mille, Leopoldo. Grazie, ti ringrazio. Grazie a te. Un bacio a tutti i compagni e compagne. Un saluto. E andiamo in chiusura di questa puntata di Parole Ribelli. E allora Parole Ribelli lascia i comandi al GR e vi saluta, vi augura una buonissima giornata e ci vediamo il prossimo martedì. Ma prima di andare a cura del Collettivo Universitario Autonomo. Ieri c'è stato il Cineforum. Bene, stasera rilanciamo e facciamo festa grande, karaoke in via Balbo. Parole Ribelli vi dà appuntamento insieme al comitato di quartiere Vanchiglia e a chiunque abbia voglia di godersi un po' di quest'estate anticipata in via Balbo, in zona pedonale, dove per tutta la settimana si terrà la festa di quartiere. E allora, come dicevo, Parole Ribelli lascia i controlli al GR, all'informazione di Blackout. Ci vediamo martedì prossimo, ma soprattutto ci vediamo stasera belli sbronzi a cantare in via Balbo.